scusa! È la mia macchina! Peugeot 104 è un trabiccolo vagante, l'abitacolo è un testicolo gigante, ha un colore indefinito, sembra quello dell'impermeabile di un pervertito psicolabile, più che un'automobile, un carretto d'ambulante, il cambio danza ballerino sul volante, il classo fa qua qua, sembra una papera, marmitta catalitica e cintura, di sicurezza non si tira perché sono grasso, che schifezza. Peugeot 104 corre forte nella vita, né semafori e segnali, solo strade senza regole, verso la libertà. Peugeot 104, un soprammobile tascabile, lo spinterogeno, una bambola gonfiabile, ha una forma indefinita, sembra quella di una betoniera arrugginita di un'impresa edile, cassone di immondizia coi fanali psichedelici, con gli ammortizzatori sempre scarichi, a un vasetto peperlizia, stuzzica un teppista masochista a fare una rapina a uno zoppo autostoppista la mattina. Peugeot 104 corre forte nella vita, né semafori e segnali, solo strade senza regole, verso la libertà. Peugeot 104 corre forte nella vita, né semafori e segnali, solo strade senza regole, verso la libertà. 104 sei diventato un mito, sei legato al dito di ogni singolo individuo, ti volevamo fare pure su un graffito. Peugeot 104 tu sei diventato un mito. Peugeot 104 che casino, attacca panni, batti panni, guanti santi, il finestrino è un temperino, lo specchietto è un trampolino, il cofano in ceramica, il cruscotto è come cartigenica, ma è quasi d'epoca, sembra una ruota panoramica, il tergicristallo è sovrastato dalle multe, i tappetini li ho tagliati con il fai da te, l'autoradio è del 50, si va bene, ho una dura, c'è nascosta nel baule, ma che stile. Peugeot 104 corre forte nella vita, né semafori e segnali,